ho la mano ferma, so, un bel di pazienza ci vuole. Guarda, io ti rispondo come mi hanno risposto a me la media Robe, a me e a tanti altri. Io volevo dare un apparato nuovo, da loro, e quindi il massimo, proprio nuovo, del pacca, pagato, diciamo, faccio l'esempio, 300 euro, quindi uscito da negozio loro circa 2 settimane. E ho detto, guardate, chi lo voleva non lo vuole più, e quindi mi sono ritrovato in piena garanzia, ma d'altro modo potete controllare anche che è il vostro. Guardi, purtroppo noi glielo possiamo ritirare dandole 100 euro in meno, perché quelle 100 euro sarebbero il nostro guadagno, di meno non possiamo fare. Questo per dirti che se io mando un apparato, un baracchino che ne costa 250 per fare una riparazione, quanto pensi che ti prendano di lavoro, soprattutto dovendo lavorare sugli SMD, cambiando il componente, eccetera, eccetera? Io penso, se è vero come è vero, un diritto di chiamata è 40 euro, ti prenderanno 150 euro, a quel punto penso che ti convenga mutarlo via e comprarne uno nuovo, ecco. Mi sto mantenendo basso con 150 euro di riparazione, perché se poi ci sono anche finali e compagnia cantante, allora ce lo buttiamo per tutti. Ma sono molto, vabbè, solo che, vabbè, tu parli fuori garanzia, tipo riparazione fuori garanzia, perché in garanzia lo dovrebbero spedire alla casa madre e se lo vedono loro. Certo, fuori garanzia, no, chiedevo se erano molto fiscali con queste tabelle degli orari, eccetera. Non so perché in via Bucari una volta ho detto, vabbè, le ore che ci spendete mi dite quant'è, no? Per riparare un computer. E loro hanno detto, se ci facessimo pagare a ore, dice, con la stessa cifra ci comprerebbe 10 tower nuovi. È vero, sì, però guarda, se parli di computer, sono tutte schede, quindi se mi si rompe una scheda di rete, io non mi saprò a ripararla, costa credo 6-7 euro. Se la tolga te la metto in esattamente mezzo minuto, il tempo di togliere le viti, e lo sai benissimo. Se il processore te lo stacco lo stesso, lo sostituisco, e ci metto il processore, che quello costa un po' di soldi, ci devo mettere la pasta termica e se lo sostituisco. Chiudo tutto e te lo restituisco. Quindi non è come andare a mettere mano al saldatore, difficilmente c'è qualcuno che mette mano al saldatore per riparare un computer, perché prima non ne vale la pena, nonostante la maggiore del caso, e poi perché è raro avere un incidente su una piazza, ecco, sono abbastanza ben fatto. Ah, ecco, allora in quel frangente era una rognetta comunque software, credo. Credo, adesso non vorrei sbagliare. Poi tra le tante cose mi ricordo che tanti anni fa, non so cosa accidente sia entrato su XP, o sul 98 era addirittura, no, forse su XP. Praticamente sentivo questo computer lento, e poi dal coso delle risorse vedevo il processore girava al 100%. Detto, ma cosa c'è che stava? Poi vedevo sempre il modem acceso, come dire, il LED del modem a manetta, no? E facendo una testata avevo visto che questo computer era diventato uno di quei classici computer zombie che bersagliava, che pingava di continuo decine, centinaia, migliaia di indirizzi IP. Molti erano 1000, c'era questo 1000 di mezzo, mi ricordo. Non so se sia roba governativa, cioè i cosiddetti computer zombie, venivano infettati e mitragliavano di pacchetti di dati i siti più disparati. Mi ricordavo anche il nome del virus che facevano cosa del genere all'epoca, poi non mi ricordo. Insomma, non c'è stato niente da fare, né partire modalità provvisoria, né arrestare processi lonfi di sistema che poi si riavviavano al prossimo riavvio, niente da fare. Bisogna formattare, non c'è stato niente da fare. Sì, perché a volte c'è anche il fatto che perlomeno c'erano dei virus che andavano la cosiddetta partizione bassa della le prime righe di scrittura che sono difficilmente raggiungibili da, o erano all'epoca difficilmente raggiungibili da, davanti ai virus. Addirittura in certi casi non era sufficiente la normale formattazione e quindi in quel caso lì era un bel pasticcio e ce n'erano, diciamo, dei problemi. Adesso con la grandezza di disti e quindi la possibilità di fare dei backup anche di vari PC del sistema operativo, il problema è stato risolto. Ad esempio io ho almeno due disti di sicurezza, quindi me lo puoi spaccare anche adesso, mettermi sotto i piedi la disti, buttarci tutti i virus che vuoi, prendo l'altro, lo inserisco e ci ho di nuovo tutto istantaneamente, e l'altro l'ho formato e poi lo ricopio tranquillamente, capito? Quindi ci sono dei programmi, tra l'altro anche gratuiti, che sono molto molto efficienti, tipo se si chiama Fasto Magico, una cosa del genere, che è gratis. E così risolvi il problema, questo per dire, ma per le radio che oramai stanno uscendo tutti anche con il loro software, la cosa è molto più rognosa perché sono tanti parametri e niente, capisco. Io ad esempio ho tante radio che non sono riparabili, se lo potevo guardare, nonostante costino veramente care, non mi conviene perché dovrebbero andare in Germania. In Germania, essendo apparati di un certo costo, la riparazione deve essere di un certo costo, anche se piccola, quindi si può immaginare. Seia, ma una curiosità, gli apparecchi amatoriali moderni, come può essere una KF, dentro come sono, schede o comunque sempre schede tipo computer o comunque costruiti come al solito? Magari sotto la sede, ma a sede non li fanno perché poi i contatti potrebbero creare problemi. Io ne avevo uno a schede, un apparato formidabile che era della GEDC, Japan Radio Company, che era praticamente faceva credo solo apparati professionali per il navale, c'erano tante schede, no? Pure togliesi, identiche più o meno a quelle carri slot, e poi i contatti, un po' di antiossidante, però farlo adesso è impensabile, primo perché sono troppo grandi, secondo perché queste schede sono talmente miniaturizzate oramai, che metterci degli utili delle schede è un po' così, ecco. Probabilmente in qualche settore ci saranno, però sto appena cambiando apparecchio, ecco. Ecco, no, speravo anche in roba lì come ISO moderne, invece no, siamo sempre lì, dai. E poi hai detto che possono dare falsi contatti, contatti a pettine, quella roba lì. Ma figurati un baracchinetto da 50 euro, mamma mia. È come se fossero usa e getta, cioè se si rompe fuori dai 2 anni della garanzia va sacrificato agli dei, basta. Ma è così, ma stiamo lasciando il posto già solo a Manuele, poi è andato molto via, non lo so. Manuele, scusa se ho rotto più di fondo. Allora, primo, un istante, quando ha detto che si allontanava un attimo, forse è ancora impegnato, dai. E intanto fra poco, fra breve chiudo, dai, così se devi cenare cena, eccetera. E così mi organizzo la serata TV, oppure vediamo se qualcuno voglia riuscire. Ok, quindi capisci com'è la situazione qua, sappi che poi non c'è nessuno in grado di riparare apparecchi, ma neanche baracchini, a parte qualche amatore, diciamo, che magari cambia il finale, cambia qualcosa, ma se inizia a essere roba un po' rognosa, e la lavorare con il microscopio, uno gli dice, insomma, ma va Dio, perché in quel range di prezzi non fa. Ma neanche nei miei, io ho molti apparati, sono, non dico pressurizzati, ma quasi, c'hanno la guarnizione, capito? C'hanno la guarnizione particolare, sono chiusi in maniera particolare. La batteria hanno delle indicazioni particolari, attenzione, ricopertura, non so, proprio si tolgono l'aria, rimangono tutto vuoto, perché sono, devono rispettare norme severissime. Quindi se ti metti a prima una cosa del genere e poi a mettere la guarnizione, caro mio, poi sono dolori. E poi sono tutti troppo piccoli, ci vogliono quelli quando vanno sicuramente in fabbrica o dall'assistenza grossa, le cambiano la scheda, la riavvistano, via, fa, e poi si arrangiano a rigenerarla in qualche modo. Prego, avanto. Buonasera a tutti, dai, sono andato per farvi un salutino, vi sto ascoltando ma sto facendo roba, dai. Vi saluto tutti e due cordialmente, Gianni Doppio Luma, avanti. Ciao Gianni, buonasera. Ciao, già, ben sentito, là, già lo sappiamo che sei indaffarato, ecco, e quindi quando puoi entra, quando puoi. KK, io c'ho sempre da fare qua, è un casino, la casa vuole pulita, vuole ordinata, babbo dai, va, e tu cosa mi racconti di bello? Al mare hai smesso di andare? Ma da parecchio, avevo tolto anche tutto, ombrellone, la sedietta che stava dietro nel cofano, sì, non, troppo caldo per me già, non me la sentivo proprio. Ogni anno che passa sento che il fisico non lo sopporta bene sto caldo, poi da quando c'è stata questa storia ormonale non ne parliamo, certe volte vado a fuoco, proprio col viso, vado a fuoco. E mi vengono le caldane tipo menopausa, ora si pure sia l'andropausa, chi lo sa? E magari ti sta venendo precoce, Marco. C'è l'andropausa che poi fa. No, non è precoce. Ma non è che sta cambiando sesso, Marco. Io già fendo l'uccello al chiodo, amico, quando non. Cambiato sesso, chi lo sa, tutto è possibile, questi ormoni qua sostitutivi, magari ha sbagliato, il medico mi sta dando qualcosa tipo, come si chiamano quelle porcherie che danno, estrogeni, no, sì. Ho sentito roba terribile, ricotte di crude, questa storia dei bambini drag queen, che ai bambini piccoli li lasciano scegliere se vuole essere femminuccio o maschietto. Ho sentito parlare anche di cliniche dove soprattutto su orfani, dove sperimentano, se gli danno ormoni per bloccare il normale sviluppo, cose allucinanti, cioè drag queen di 8 anni che ballano nei locali gay a culo nudo, questi sono fuori di testa, questi stanno, cioè, sbarellando proprio, cose folli. Te l'ho detto, in un futuro non troppo lontano saremo tutti tipo Malgioglio, capito, tutti tipo platinette, mezzi e mezzi. Già la giacolene la cosa, ohia, non penso che sia così, ma io sono preoccupato più per i vaccini che per queste cose, ma sono preoccupato per cosa ci sia questi vaccini che vogliamo fare. Vabbè, anche lì non lo so cosa ci mettano dentro, questo Bill Gates che si è buttato a capofitto nei vaccini, prima ha fatto per decenni sistemi operativi di cacca, adesso farà vaccini di cacca, non lo so. No, guarda che sono cose sentite, cioè ci sono questi genitori moderni, no? Poi li vai a vedere, sono tutti col pluritatuati, orecchino all'orecchio, al naso, alla lingua e anche in altri posti, che dicono che la libertà, cioè il bambino o la bambina può decidere di che sesso essere. Gliel'avrei tolti i figli, questi sono scemi. ce li fanno uscire vestiti da bambino o da bambina, cioè l'opposto. E ho sentito parlare anche di ormoni per bloccare il normale sviluppo delle... Cioè, quelle sono, sembrano gli esperimenti nazisti che facevano nei lager con i bambini, roba da Mengele. Qua si sta oltrepassando veramente una cosa contro natura. Però dipende anche da dove lo dici, perché non è detto che sia così. Un medico normale non permetterebbe mai una cosa del genere. Un medico normale, ma chissà quante porcherie fanno nelle retrovie. Comunque sì, c'è anche su YouTube draghe quindi di 6 anni, di 8 anni. I genitori sono contenti, cioè, d'altronde la libertà, quelli sono i classici però genitori, no vax, no global, no tav, no sex, no tutto, capito? In teoria uno dovrebbe avere, secondo me, la libertà di fare qualsiasi cosa indipendentemente dalle leggi, non dico la morale, me ne frego la morale, indipendentemente dalle leggi, capito? Ma come che non avessero, poi però si scontrano con la realtà, no? Quando gli tolgono i figli, come quella scoppiata fruttariana che dava solo mele e acqua alle bambine, no? Poi quando hanno avuto gravi problemi di salute perché la dieta non era equilibrata, gli hanno tolte, capito? Cosa vuoi fare? Vuoi lasciare? Purtroppo c'è una cultura ho sentito dire anche pericolosissima. Guarda quante cose stanno succedendo, poi c'è l'assoluta negazione della verità, guarda quelle bestie che hanno ammazzato quelle ragazzine. Anche girando con macchine di lusso e dentro il debito di tutta la finanza adesso le sta facendo, diciamo così, il mazzo proprio, le stanno controllando casa, tutte tasse, fino a quando sono nati a questi signori. E poi gli hanno dovuto mettere anche in isolamento perché per i detenuti sono anche dei ragazzi, quindi sai come, sicuramente le danno qualche bella saponetta quando sono nella doccia e quindi gli hanno dovuto mettere in isolamento. Gianfra, ho un po' di difficoltà a ascoltarti oggi, ho alzo il volume a dismisura, dai, poi vado un istante in bagno che ho la vescica zampogna, Gianni riprendi un attimo, arrivo subito. Cambiare l'acquario lì, Cristiana? Di brutto. Vai, prima che ti fai la doccia mi tocca portare il pannolino a casa. Già così. Vabbè. Stavo guardando un po' di cose sugli UFO, voi vi siete mai interessati delle estraterrestri? Come no? Mi conosco un paio anche. E non me li presenti? Non sono molto, molto socievoli con chi non conoscono. Prima lo disintegrano e poi dicono chi era. No, non fanno del male, no. Gli UFO vogliono solo il bene. Dipende da dove sto vengono. No, comunque di un po' nel tralca sempre su internet ho letto non hai quelle, sono centinaia di riviste di forum anche di animali eccetera e c'era questa esperta che diceva che ai gatti piacevano delle olive perché contengono credo dei feromoni, una cosa del genere che si sta parecchio e ci vanno matti. E io come reati ne ho detto, ma che strano, e capo anche le olive. Ho dato le olive, le ho messe, sono arrivati tutti contenti, mi hanno guardato come dire, ma questo è scemo, e c'era questa roba, se ne dia, sono rimaste lì una settimana finché non ci sono buttate. Perché magari non sono tutti che accettano certe cose, per dire il mio gatto non mangiava pesce, mangiava solo gourmet gold, solo quello che costava di più. Il gourmet gold e poi voleva, non voleva altro, e tutti dicevano il gatto se viene da mangiare scatolette campa poco, invece mi è campato 19 anni. Quello è come per i cristiani, c'è gente che fuma parecchio e arriva a 90 anni. sai, dipende da tanti fattori, e così anche per gli animali. C'è chi arriva a una certa età e si adatta subito, soprattutto gli autoenteriti, ma anche malattie cardiache. E c'è chi invece campa tranquillo, anche se magari non vantaggia. Marco, ci sei? È svuotato? No, secondo me è andato a controllarsi qualcosa, cioè che stia realmente cambiando sesso e non se ne accorta. Sta andando a mangiare qualcosa, magari qualche cioccolato, per non dirlo che sta andando in bagno. Lui è un golosone. È quello sì. Ma tu mi senti bene, Gianni, perché cosa, Marco mi ha detto che ha toccato ascoltarmi. No, io ti sento benissimo. Non sono con l'antenna quella subita, sono con di solo, perché volevo vedere uno che era da poco solo, che arriva a Santiago 7-8, a Marco 9, no, 9-9 qualcosa, con cose un po' anomale, ecco. Tra l'altro c'è una montagna che mi ha fatto qui. Comunque, boh. Eccomi. Eccomi. Fatto Marco, cosa ti hai mangiato? Qualche cioccolato? No, no, ero proprio in bagno a cambiare l'acqua alle olive, anche perché io bevendo, sono sempre con la bottiglia dell'acqua. E quindi, plin plin, chiamala plin plin. Cosa volevo dire? Non me lo ricordo, qualsiasi cosa fosse non me la ricordo. Riprendi già ancora. No, ho detto, ma cosa bevi? Acqua olivetto per pisciare così? No, no, qualsiasi acqua, qualsiasi, può essere San Martino, e che ne bevo molta. Cioè a me piace bere, poi in estate particolarmente, poi dopo quella cosa anche qualcosa in più. Così, poi ho sempre questa scarsa salivazione, non ho mai voluto appurare cosa fosse, quindi spesso la bocca asciutta, sempre sorsino di acqua, certe volte vado in apnea, mi posso bere anche mezza bottiglia tutta in un fiato. Misurati la glicemia, non per bilanciarti, ma sono sintomi che può dare anche il diabete, questo. No, no, controllata, ogni tanto faccio i controlli periodici, no, si è verificata un po' più questo aumento dopo quella cosa dell'ipofisi, no? Gianfra, ti volevo dire, anche questa cosa comunque, si è notato anche nelle serie TV adesso, stanno smerciando di più l'omosessualità, i trans, tutte queste cose qua, vedi? Quella serie molto alternativa, non so se la conosci, si intitola Sense8, scritto Sense8 e si pronuncia Sense8, e quindi si sta allargando la cosiddetta finestra di Overton, mentre nei telefilm fino a anche un decennio fa non ne vedevi un po' di cose un po' così. E quindi quello che a malapena era tollerato ieri, poi è stato prima inaccettabile, poi tollerato, poi accettato, poi istituzione. E chissà, fra qualche decennio saremo tutti davvero. No? Non so se tu conoscevi i fratelli Wachowski, di quelli che avevano fatto, diretto, scritto, cosa, non mi ricordo, Matrix, no? Fratelli Wachowski era un nome ricorrente, no? Poi ho visto dei film recenti, o telefilm come in questa, quella serie Sense8, dice, diretto, o comunque c'entravano le sorelle Wachowski. Ho detto, ma quanti sono in famiglia? Saranno vari fratelli, vari sorelle, invece sono quei due, ai tempi di Matrix, erano maschi, sono diventati dei trans. Non so a che livello, non so se abbiano perso pezzi, ma sono tutti imparrucati, truccati, tutta una cionfra è diventata. Sono ripassato al piccolino, così lo sento anche Gianni, che magari lo può interessare anche per la sua macchina, che sicuramente è meglio di un portatile comunque. Sì, hai sentito, sta diventando donna anche quello là, che si è fatto 50-60 operazioni, aveva detto che se ne fa tagliare tutto, quello Big Jim, no, lo chiamano, non so se c'è presente. Sì, Big G, io lo chiamavo Ken perché mi ricordava più Ken. Sì, quello, sì, credo che abbia fatto tutto anche. Ma lì, già la trasformazione del viso mi sembrava qualcosa già di, non lo so, patologico. Eppure un bel di gente, anche ragazze, si alterano a tal punto la fisionomia da sembrare identici alle bambole di Barbie. Cioè con questi occhi enormi, non so che tecniche usino, ma sembrano fatti di plastica, sembrano androidi, non sembrano nemmeno esseri umani. Oh, Gianni, riprendi. A proposito di androidi, voi, per lo stavo chiedendo a Gianfranco, vi siete mai interessati degli extraterrestri? Io potrei crederci, più che in un'entità superiore, religione, roba, sì, è possibile. D'altronde perché abbiamo la presunzione di essere soli in milioni di sistemi solari, miliardi di pianeti? Perché dovremmo essere soli nell'universo? È come dire quella battuta di Golfino, sarebbe uno spreco di spazio, vai Gianfranco. Infatti poi bisogna vedere tante leggi, diciamo, ho letto uno scienziato che ha studiato tutte le varie fasi dei telefilm di Star Trek, no? Sulla velocità, e ha detto che solo per rimanere nel nostro sistema solare sarebbe già in salita, perché anche con la loro velocità non si riuscirebbe. Ti dovresti per forza bannare, in parole povere, perché si parla di anni e di anni, quindi è un problema, però sai com'è, anche nel 1200 era un problema guarire dal colera, adesso invece si può guarire con gli antibiotici, quindi grande punto di domanda. Infatti, chi lo sa, fino anche il volare, no, era impossibile volare, vabbè, poi magari pochi anni dopo, inizio 900, qualcuno ha fatto le prove, i fratelli Wright, o quegli altri scassoni che facevano per tentare di volare, quello che aveva quella specie di piatto contrapposto, non so se è presente, saltellava sta cosa. Questo Pier Giorgio Caria che ha delle testimonianze sugli UFO, che è sano tra l'altro? No, vedere no. Poi va bene, testimonianze, io sono come San Tommaso, devo vedere io poi per credere, io no, finché non tocco con mano non credo. Ma è riferito a quella zona, mi pare verso giù a sud, un po' dove ci sono vari avvistamenti. Sì, ma poi praticamente ha fotografato, ha fatto video, questo qui, ne ha visto di tutti e di più. Vabbè, che poi adesso con questi dronetti magari uno crede di vedere un UFO, magari un drone con questi LED. Scherzi se ne possono far tanti, mi ti ricorda niente già. L'hanno fatto anche a me quando stavo pescando, te lo ricordi, te l'ho raccontato, che mi hanno fatto alle 2 di notte, mi hanno fatto lo scherzo, mi hanno fatto gagasso. Guarda, per come l'avevi raccontata era anche suggestivo, cioè tu mi avevi parlato di una luce, un punto luminoso fortissimo, questa luce fortissima che si avvicinava, che roba è? E poi era, se lo vuoi dire, dillo, dai, quelle, come si chiamano, cose cinesi. In effetti sai che cosa avevano fatto? Avevano messo la diavolina per fare quella luce forte, dei cubetti di diavolina per aumentare la luce della lanterna, capito? In effetti era una cosa proprio che ti veniva in faccia, era sempre più forte. Cazzo, mi sono, guarda, una cosa che poi il giorno, la notte, c'era sempre più di gente, la notte non c'era un'anima viva, mi sono fatto addosso. Jack, cosa vedere un'astronave vera e propria di qualche centinaio di metri che si abbassa su di te, mamma mia, e lì cosa fai? Se scappi è peggio, forse è meglio rimanere fermo. Qua è Gianfranco. Sì, ma quelle non sono cose interessanti, però quelle sono prese in giro, che tra l'altro sono una volta, secondo la situazione, sono fatte anche ad arte. Sai, quando vuoi dire che una cosa non è vera, fai finta che sia vera, e viceversa. Le testimonianze interessanti sono quelle invece dei militari, dei piloti della RAF, che adesso hanno desecretato anzi vari documenti, e in effetti ci sono stati anche degli inseguimenti. E la testimonianza sempre dei piloti è stata che non erano degli eventi naturali, ecco, ma erano proprio delle macchine che riuscivano a raggiungere velocità notevoli, la facciamo ciao ciao, e poi erano anche rilevate del radar, che ovviamente però non lo dicevano perché è tutto coperto da segreto, capito? E piano piano sta uscendo fuori, e poi da dove vengano questi visitatori, diciamo così, tra virgolette, noi non lo sappiamo, però diciamo, ci sono documenti che mettono più di un interrogativo. Claro, tieni presente che questi piloti militari sono tutti super testati, gente diciamo con la testa sulle spalle, quindi sono professionisti, quindi non vanno a raccontare balle per scherzare. E poi sono suffragati anche dagli strumenti e dalle tracce, tutto lì, e di lì c'è un grande punto di domanda. Che poi secondo me questi UFO, come le vuoi chiamare, loro si fanno vedere solo se vogliono, avranno minimo la tecnologia anche per non farsi vedere dai radar, diciamo che lo fanno apposta, per giocare a nascondino, no? Mi vedi o non mi vedi, capito? Poi spariscono velocità elevatissime. Qualcuno parlando sottofondo, non so chi sia. Avanti, chi voleva intervenire. Forse era qualche cosa là fuori, non lo so. Vabbè, là, raga, io vi saluto, devo portare giù il cane e poi mi mangerò una pizzetta. Ci sentiamo, buona serata a tutti, vi ha fatto piacere questo piccolo QSO, alle prossimine, dai. Doppio Runco RT esecutivo. Ciao! Ma aspetta Gianni un attimino, dimmi come ti sembra questo apparecchietto, che sto usando un micro apparecchio. Com'è la radio? Va bene, sì? Questo va meglio dell'altro, l'altro rimane cupo. Addirittura. È un apparecchio di quelli piccolissimi, Scalda un po', però è anche in ricezione, è formidabile. Lo stavo dicendo poco fa anche a Marco, un meraviglia apparecchio. E costa una fesseria, una cinquantina di euro. Va molto bene, ho visto. Ma cos'è? Portatile? Se c'è una tasca grande te lo metti in tasca, non è un portatile, è un veicolare. Il PR, boh, adesso non, PNS HP 6005. Quella in macchina va bene, cazzo, almeno hai un apparecchio, con quanti partecipi già? Dunque, c'ha due possibilità, farlo uscire a 2 watt, anche a 1 watt, a seconda della programmazione che fai tramite i tasti, no? Perché funziona così, tu lo spegni, poi premi un tasto, lo accendi e c'ha determinate impostazioni. E da 1 watt volendo fino a 8 watt. Buono, caspita. Marco, tu non mi dici nulla, non lo conoscevi te? Sì, lo conoscevo, guarda, è la stessa cosa del CRT Millennium, però il Millennium lo paghi 20 euro in più, capito? Qua 49, il Millennium 69, dalla maggior parte dei venditori. Però sono di quelli ultrapiatti, cioè a me piace AMFM e SSB, poi che si usi poco, però io li voglio completi. Ti mando il link. Ehi Marco, là, Fabio, mi lascio là, che sennò questo qui sta brontolando, mi sta già facendo wow! Ciao ciao a tutti, buona serata, anche agli ascoltoni. Ciao Gianni, buona serata anche a te e buona cena. Marco, ti volevo dire poi che da assorbimento questo affare non mi muove quasi neanche la lancetta. dell'alimentatore, infatti usa un alimentatore da 50 ampere, è anche esagerato. E in compenso scalda, che se ti puoi mettere la sera ci metto una bistecca sopra, solo che è troppo piccolo, ma dovrebbe essere una bistecchina proprio microscopica. Sì, è vero. Ho visto anche altri apparecchi simili e proprio assorbono una cosa infinitesimale. Però poi durante l'uso scaldano ovunque. E spazi ristretti, poi non ha dissipatore che ricordi. E tutti questi messaggi. 38 messaggi su un gruppo. Ah, vabbè, io non me ne sono accorto perché ce l'avevo là. Imboscato il cellulare, vabbè, niente di grave. Ok, cavolo, ho fatto tardi, ho visto che fuori è buio e quindi adesso me ne vado a casa anch'io. Ci sentiamo Marco, buona serata, buon pranzo, se lo fai io vado a cena. Ci sentiamo domani, sì, ciao. Ciao Gianfranco, buona cena, buon tutto e ci si sente quando capita, ok? Ciao, buonanotte. Ciao, rentra spesso lì. Ma che accadata ci scappa, capito? Posso stare lì con questa televisione, che sto pure male agli occhi. Ci vediamo, ciao! Ma siamo sempre in due, in tre, sono tutti in PMR. Non c'è più volontà di entrare in 27, pazienza. Va bene, ciao, buonasera. Ciao. C'è su tutte quelle altre cose online, no? Allora. Non ne uso, è staccato perché c'era nell'altra casa, ma non è nemmeno attaccato perché tanto non ne usiamo. Cosa cazzo lo prendo a fare? Non ho mai comprato un Blu-ray, mai comprato, sempre il DVD c'ha perso. Ma sai perché? Io quando è uscito il Blu-ray, no, negli anni a seguire, siccome i film costavano un po' di più, e ho detto, ma per un film che me lo fate qua a acquistarlo, quando lo danno in TV me lo guardo in TV, no, invece adesso ho visto i prezzi del Blu-ray e sono molto più bassi, adesso ti costa quanto un film in DVD. Già sono un giorno senza vederli e quando arrivo la sera mi si blocco, no? Non ho tempo di stare con questa roba, qui sono stanco, adesso la TV ce l'ho, solo giù ce l'ho, qua nemmeno in camera ce l'ho. Eia, mamma mia, cos'è sta puzza? Iago, già è colpa mia, mi sta dando aria, mamma mia che roba brutta. Arie? Ma che tipo di aria? Rodiato di lì? Sì, praticamente sì, e non è piaciuto nemmeno a me. Porca miseria, credevo fosse una cosa più discreta, almeno per il naso, ma porca miseria. E quelli sono i pasticci che mangio, me, perché io ne mangio pasticci, Sì. Allora, sto dando un'occhiata a un manuale di istruzioni, ovviamente in inglese. Provo a vedere come cambiava la banda con l'apparecchietto. Eccolo qua, changing, cambiando lo standard di banda, vediamo un po'. Ciao, hai fatto la buzzetta. Vabbè, non potevo succedere. Comunque, ti volevo dire ieri. Di ieri che del caffè, che alla fine c'è buono, invece di prendertelo dal bar te lo prendi a casa, quindi 50 capsule, c'hanno anche una data, c'hanno, cioè ti sembra che ti durino tanto, però se lo lo prendi quasi sempre a casa, che è buono il caffè e tutto, se lo prendi a casa e risparmi tanti soldi. Sì, poi il profumo anche. Ho visto che quando fai quelle con le capsule, il profumo del caffè è tale che riempie tutta la camera o tutta la casa. È un bijou a sentirci. E infatti vediamo adesso, naturalmente per esempio la Vazza è conosciuta, le capsule proprio ovunque, non c'è problema, dai. Però l'importante, cioè a me secca avere, ne ho accennato ieri o quando era, mi secca avere, che ne so, 100 capsule tutte identiche. Io preferirei magari comprarle nei market normali e, che ne so, un giorno pigliare qualità oro, un giorno qualità rossa, cioè cambiarmi un po' ogni tanto qualche capsula decaffeinata. E poi una domanda, ma fa anche, c'ha le capsule per il tè anche, quella roba lì, non solo per il caffè, mi pare che sia versatile. Appa, c'è anche le capsule per il tè, fa anche altri servizi qua. Tipo tisane, zenzero, tutti quanti queste cose. Buono, quello è interessante. Costa un po' la macchina, anche sai perché? A me avevano proposto anche che mi davano la macchina in regalo, però poi dovevo pagare una fornitura annuale di non so quante capsule, non... quello io sono contrario a quello, dover dipendere dalle forniture, cioè preferisco comprarmi la macchina. Pagare il costo iniziale della macchina, però poi le capsule della lavazza me le scelgo io, capito? Poco per volta. Ah, guarda, ci sono le compatibili, quelle che ti ho detto, quelle della Borbone, e vendo anche da Eurospie, e dico che è buono il caffè. 16 capsule, mi pare che costano 3 euro qualcosa, non meno di 3 euro, non me lo ricordo. Li vende MD, li vendono in tanti. Quelle della Modo Mio tu trovi tutto, qualsiasi cosa. E poi diffusa la razza, voglia. E poi anche Borbone, caffè Borbone dovrebbe essere buono, è tutto da provare. Invece lì ogni volta devo mettere il caffè col cucchiaino, un po' tenere i gaggi fuori, devi pulire, devi buttare la posa vecchia. E la capsula è più pulita, devi fare meno pulizia della macchina, capito? È per mandroni, quindi per me va benissimo. No, e poi c'è il cassettino sotto, quando vedi che togli il cassettino, lo svuoti, c'è la vaschetta, cioè devi stare attento che c'è la vaschettina dentro, c'è una vaschettina in più, lo svuoti, dai una pulitina, la torni a rimettere, pulisci tutta e a posto. E vai con altri caffè. No, ti sto dicendo che noi ce l'avevamo avuto, ne abbiamo avuto 3 o 4 di quelle macchinette. Una ce l'abbiamo un sacco di anni. Una si era guastata perché praticamente Babbo non se ne era accorto, era pieno il serbatoio, ha chicciato, trae, fa il caldo. Poi ce ne avevano dato 3, ne avevano avuto, poi ce ne avevano dato una in sostituzione al volo e poi ne avevo comprato un'altra. Sì. E dopo mi guardo i prezzi, poi quando sarà la prenderò, valuto se prenderla e vediamo quanto è il costo iniziale. Stavo guardando una cosa di quell'apparecchietto, però io non vedo banda tedesca, parla sempre di 4 watt FM, 4 watt AM, non parla di 2 watt, che strano. Invece in certi apparecchi proprio se metti la banda tedesca ti mette un watt solo in AM. E poi la si abbiano cambiato normative oppure tutti gli apparecchi sono diversi, per quanto norme europee alla fine variano. Vabbè, poi quando capitale glielo chiederò Gianfranco. Un apparecchietto stava provando lui. Gazzarola. E andi vuoi andare con un watt? Dipende dalle normative, per esempio alcuni apparecchi di anni fa, qualche anno fa, insomma dopo il 2010, In Germania potevi usare 4 watt AM, cioè scusa, 4 watt FM, però solo 1 watt in AM. Poi può darsi che abbiano uniformato le normative anche lì. Guarda, quasi tutta Europa parla in FM, gli italiani e gli spagnoli sono quasi gli unici che hanno una fissa per la M, capito? Tedeschi, inglesi, tutti in FM, poi vabbè, chi può, c'è gli apparecchi anche multimodo, multibanda, anche loro fanno i DX, più o meno legali, normative strane. Ok, guarda che i giapponesi erano messi molto molto peggio di noi in Italia. I giapponesi avevano, adesso io non so come sia la situazione attuale, potevano usare fino a penso 20 anni fa apparecchi solo portatili, erano come degli apparecchi spalleggiabili, non so se è presente quelli di una volta, e avevano 500 milliwatt e 8 canali, lo sai, AM, 500 milliwatt, 8 canali, e l'antenna doveva essere incorporata come i PMR nostri. Eppure ho visto i giapponesi facendo i DX in QRP con mezzo watt, naturalmente DX di Kikia no, cioè pochi chilometri, potevano fare poche decine di chilometri, certo non migliaia di chilometri, no. Bim bum bam. E beh, Kaviuski. E beh, a voi sì. Com'è, tutto a posto? Andendi, tutto a posto. Mezzugai, già va bene. Allora, com'è? Avevamo chiuso con Gianfranco, era entrato Gianni a salutare anche. Poi ho letto il messaggio e c'era Bombolo che aveva prenotato la portanza, allora dopo gli ho risposto. No, li stavo raccontando a Bombolo, i giapponesi erano messi tipo i PMR nostri, lo sai, avevano apparecchi che sembravano veicolari spalleggiabili, antenna incorporata, 500 milliwatt e 8 canali in AM, e poi i canali erano tutti sfasati, cioè non avevano i 5 kHz finali, erano tutti sfasati. Era una cosa assurda, e gli apparecchi erano marcati Panasonic, Philips, Roadstar, tutte quelle marche là. Guarda, li devi vedere, erano diciamo unici nel loro genere quegli apparecchi CB. È bello che loro si facevano DX in quelli P con 500 milliwatt, lo sai, magari facevano qualche decina, qualche centinaio di chilometri, non di più, certo non migliaia, eppure facendo DX in quelle bande, però che sono apparecchi di almeno 20 anni fa, se non di più, adesso non so come sia la normativa. Poi anche lì ci sono i pirati che c'hanno di tutto, vabbè, come in tutti i paesi. Vai Claudio. Beh, a tutte le parti ci sono le cose belle e le cose brutte, è normale, cosa devi fare? Comunque loro sono abbastanza all'avanguardia rispetto ad altri, non c'è niente da dire, sono preparatissimi. Va bene. Rumori senti, no? Non senti più niente, non c'è più quel rumore che c'era prima. No, quel sibilo no, però si sente a bolotto di gente, di televisione, di tutto. E c'è la porta aperta, è 60 così, no? Non c'è niente da fare, c'è chiuso la porta, c'è un caldo. Avanti, Anto. Cappa, non hai ventilatore, condizionatore, in chiese, non vai nulla. Dentro qua c'è la radio? No, quando l'accendo, modulando, cazzo via, si intende, non si intende nulla, no. Scusa, mia moglie soffre un po' di otite, capito, quindi è per quello. Ah, così è. No, a me la televisione è alta, non mi piace. No, la radio sì, l'impianto sì, ma la televisione è alta, la preferisco tenerla normale. Poi i giapponesi negli anni 80 avevano, sì, avevano apparecchi CB di cacca, ma avevano dei, chiamiamoli, baracchini sui 903 MHz, lo sai? ma erano all'avanguardia, cioè mentre noi avevamo l'Alan 34S, loro avevano già subtoni, chiamata selettiva, dispari, cristalli liquidi, ma tu devi vedere cosa non erano questi apparecchi, ed era l'epoca prima del cellulare, addirittura vendevano i rosmetrini sui 900 MHz, i linearetti, ma tu devi vedere, marche poi Aiva, tutte quelle marche giapponesi, GVC, che da noi non esistono baracchini marcati Aiva, GVC e tutte quelle marche lì. E una cosa simile, Claudio, l'hanno avuta anche la banda dei 900 MHz come banda cittadina, ma con 4 watt, 5 watt, in Inghilterra e in Svizzera. Della Svizzera non lo sapevo, fino a pochi anni fa non sapevo niente. Ahia, ahia, ho chiuso la porta, dai. Sì, c'è anche qualche radioamatore che modula molto il QRP lì da quelle zone. Perciò, lo so, lo fanno. E vabbè, comunque, noi siamo un po' rimasti indietro, diciamo, dai. Comunque. E vabbè, ma io sto andando un po', Marco, che non è giugato, mi stavo seguendo stasera, poi alla fine ho abbassato il volume, ho visto che battendo a farati con microfoni FM eccetera eccetera, io non mi stanco subito la verità, e quindi mi metto a chiacchierare in PMR, se invece c'è qualche discorso così, allora magari mi fa piacere fare due chiacchiere. Vai Anto, va, silenzioso, tutto silenzioso, dove? Da te, no, ma non mi dava nessun fastidio, no, se c'è caldo apri, stai scherzando? No, c'è la finestra aperta, non c'è problema, ho chiuso la porta mia proprio, non quella del corridoio, se no le tengo tutte e due aperte, capite? Qua mi posso chiudere, no? Non mi rompe le palle nessuno, nella mia stanza, boh. Va bene. Capito Marco, quando senti a Claudio si controlla il reale, ma mi arriva quasi 9 più 10, c'è una bellissima zona, altissima, poi è molto aperta, praticamente vede tutto, è davanti alla Ginara, davanti a Tintino, davanti a tutto, quindi va bene, riprendi dai. Ehi, ehi, sì, ripeto, anche 9.10, qua io lo interpreto 9.10, più o meno, ma un segnalone, infatti ho detto, ma qua vuoi qualcuno di Sassari? Io vorrei fare uno scherzo, ma invece, vabbè, poi mi ha detto che è un apparecchio anche bello, bello teccio, no? Quindi volendo ce n'è. Ok. Eccoli qua. Belli questi apparecchi, stazioni base addirittura c'erano a 900 MHz e sembravano le stazioni base nostre, no? Sai, quelle retro fine anni 70 a 900 MHz, naturalmente lì è ancora più critica, tu immaginati già le rogne in PMR, no? Per riuscire ad arrivare l'uno con l'altro con antenne buone, lì era ancora più critica, ancora più corta l'onda. Beh, certo che sì. Io ho un VU che arriva con la 900, figurati, non è base, veicolare, la Lincoln 599, che è una radio eccezionale, è un Caterpillar, bella massiccia, c'è anche la M, figurati, c'è FM AM, fatta da 115, quindi da tutte le bandiere in AM, e poi arriva sino a 900 MHz, perciò sicuramente di quella era lì, non so, però funziona bene, è quella che uso in PMR, quella MC60, c'ha 50 watt, c'ha un bel di potenza, c'è. Umberto, è tanto, tutto ok? Tutto ok qua, tutto a posto, gra. Ah, mi stavo vedendo la curiosità, chi è che è arrivato 9.10 qua a Sassari? È un mio amico da Polottolese, Claudio si chiama, abitava in una zona molto alta, abitava c'è il faro, capito? Dove c'è il faro che si vede dal mare, lì in quella collinetta lì abita, arriva fortissimo. E Marco non ci credeva, quindi mi ha mandato un messaggio stasera, dille a Marco Corno che non lo sto prendendo in giro. io già ci credo, perché solo Veabit ha che apparecchiatura c'è, quindi. Poi ha montato la Game Master, capito? La stava provando, perciò arriva un bel forte. Non problemi. E tu rumori senti adesso, Marco, pulito? Sì, pulito. Naturalmente se è caldo aprimi. Come ha detto Antonio, non ti fare problemi. La modulazione è comunque capibile, non farti problemi se devi aprire, ci mancherebbe. No, che va giù, verrà giù, è andata la gombicciuria a vedere te. Io sono praticamente altezza di tetto qua. La finestra ce l'ho qua sul tetto, ce l'ho. Giù ce l'ho normale, ma qua apro sul tetto. No, ti stai levando 9 abbondante. No, non ho caldo, no. È per non isolarmi, dai. C'è la finestra aperta, non ce n'è problema. La radio è bella corposa, bella pulita, non si sentono, non si sente la televisione, perché a me voglio tenere sempre il volume alto, se no non si sente niente, capito? Quindi un messaggio è arrivato, sicuramente Claudio lo sta ascoltando. Riprendi Marco, prendo il telefono. Capo, e allora dovrebbe arrivare pure qua a casa. No, ero dicendo che rubaconi io, sono sotto il tetto, sono, capito? Sono sotto il tetto, praticamente io dormo sopra un soppalco, c'ho la camera da letto lì. Ah, ho capito, ho capito. E cos'è la chitarra, Marco? Una radio, cos'è? Sì, allora se guardi c'è scritto novità 1985, cioè la Intec, che fosse legale o meno poi con la radio, dubito in Italia, nell'85 aveva messo a catalogo, aveva messo in vendita questa radio giapponese che funzionava sui 903-904 MHz. Conta che i cellulari non esistevano, proprio i 900 MHz non erano occupati dai cellulari. Ma guarda anche il prezzo, nell'85 990.000 lire, ma erano radio avanzatissime con canale di controllo, scansioni, chiamata di gruppo o chiamata singola, come se fosse una selettiva, subtoni, era una cosa veramente all'avanguardia, cioè quando noi avevamo l'Alan 34S omologato che faceva ridere, loro avevano già roba di alto livello. Poi vendevano anche le antenne veicolari da base, ma che prezzi, cioè roba proprio da ladri, guarda, 200, quant'è, 90 euro l'antenna da tetto, infatti credo che ne abbiano venduto meno di zero, forse qualche azienda l'avrà comprati, però poi come sono arrivati i cellulari lì, sono diventati fuori legge gli apparati, e ce n'è di molto, molto più belli di quelli, molto più belli. Questo posso dire che è anche bruttino ad estetica. Ma feo, bello Marco, dici che radio brutta, cazzo, non la comprerei mai una radio del genere. Pucci. Ma tu devi sentire la qualità della modulazione, cioè è come essere in VHF, in UHF, cioè aveva la qualità di una radio amatoriale. Ovviamente la modulazione era in FM, 903 MHz. E gli inglesi lo stesso erano intorno a quella frequenza lì, 900 e qualcosa, e anche gli svizzeri, però naturalmente gli svizzeri, siccome è arrivato anche in Europa il cellulare, non le hanno potuto più usare, e se no, se interferisci con la telefonia, guai, ti suona la scampanello prima di subito, però comunque è interessante, come radio. Cavea, fanno un casino, un po' garetto, fa freddo, hola! Cosa devi cagliare tu? Un vogo l'hai fatto? Sì, hola. È che non si intende. Non vedi 10, sì, qua 9, 10 abbondante, eh? Sì, capo, ma abbiamo un po' caldo di freddo, aggiunto, e ci avessi andato questa cosa. Già funge, già funge, già va bene, già va bene. Riprendi, Marco, lì. E io? E se non funge la facciamo fungere. Guarda questi qua, mi hanno tolto le foto dal forum, perché hanno cambiato il sistema per postare foto, mica c'è invece. Beh, questa era veramente bella. Allora, gli inglesi usavano i 934 MHz, 934 MHz, ma tu devi vedere roba con lo smitter a ventaglio, belle, belle veramente. Faccio prima a fartela vedere, a mandartela, e ti fai un'idea. Frequenze proibitive come lunghezze d'onda, chissà quanto era critica, però il bello che lì era legale, in Inghilterra era legale, antenna una macchina, antenna veicolare e 900 MHz. Io lo credo che funge, io lo credo, tecnicamente è brutta, però se il funzionamento è buono, va bene. Sì, sì, sì, è come c'era la pulizia del PMR. Ah, ti dice Ottavio, ma tu avevi detto, dice che i 27 senti brusio, ma tu lo squelcia non lo usi. Io ho sempre lo squelcia attivato. Il minimo da togliere il brusio di fondo. E qua per me è come essere in PMR, non senti altro rumore se non le modulazioni. No, beh, non lo uso mai lo squelci, no, non mi interessa. No, nel senso che non mi dà fastidio il QRM. Ma che io è sempre molto basso, dipende, se ci sono giornate brutte può arrivare a 5, 6, 5, 4, se no adesso ce l'ho manco a 1, a 0 praticamente, quindi no, non c'è problema, non lo uso io, va bene. Quella foto praticamente è mansardata la tua casa, c'hai sopra la stanza da letto e sotto la cucina, col bagno. Fatta esattamente così è fatta. C'ho la cucina e una specie di, non dico sul giornino, va. È fatta così. È bella, ma salvata, è bella, mi è sempre piaciuta. Quella ci abbiamo in Viale San Francesco, noi per esempio una mansarda così, tutta travillegno, fatta così, capite? Mi piace molto, è che l'estate è molto calda. Molto calda l'estate, però è bella, è molto accogliente così, capito? C'hai la stanza da letto sopra e sotto l'angolo cottura col soggiornino e va bene. Va bene, va bene. Vai Marco lì, dai un altro passaggio e poi io vi lascio che sono già 9:15. Vado a cenare e poi vi guardo un po' di TV, ok? Già. Ci sentiamo, ascolta il finale e poi chiudo, vai, riprendi Marco. Ehi, hey, Claudio, sì, tanto anch'io adesso comincio a mettere televisione, o roba mia, dai. Comunque, guarda, ti mando la foto di quella base, e certo è poco definita, però così l'ho trovata. Sembra un apparecchio della 27. E vabbè, dai, tutta la guardi con calma, ok? Dai, sentiamo Claudio, buona serata, buon tutto, bombolo lo stesso, Antonio, bombolo, Antonio, dai. A me non piace più il nominativo Condor, è bruttissimo, veramente brutto, è meglio Rattapignara, solo che non mi chiamano nemmeno più così adesso al baracchino. Ah. Ehi Marco, già a me, perché Spalviero mi chiama, Claudio mi chiama, perciò. Oramai siamo tutti battezzati così, già va bene lo stesso, già. I nominativi si usavano 40 anni fa adesso, va bene anche per nome, tanto ci conosciamo tutti dalla voce, perciò poi con l'afflusso di gente che c'è, tutti spingendo, tutti là, ci sono stati già 30 break e nessuno li ha fatti entrare, ma per carità, non è più nessuno, non investirei manco un cappello per la 27 più, per carità. Esaurita completamente, dai, vi saluto, grazie delle due chiacchiere, alle prossime, ciao Antonio, ciao Marco. Ciao Claudio, ce la risentiamo alle prossimine, ciao, avanti Marco. Ehi, è arrivata la foto Claudio? No, per sapere un'impressione, come ti sembra? Ma, come mi sembra, sì. Anche questo, sì, il legno, tipo così io negli anni che furono, quando modulavo il produttore ce ne ho avuta una, era il Simpson base, c'era anche un similare di questa, così, con due strumenti, però vedi come è completa la radio, con tanti pulsanti, tante cose, era diverso. Adesso le solite cagatine, in base, non hanno niente, hanno strumento, frontale, il cambio canali, i vintage perlomeno che sono passati sotto mano a me, non hanno nuda, guarda questa che bella massiccia completa, era un altro tipo di costruzione che facevano secondo me. Sì, c'ha l'orologio, ma tu leggi in alto 934 MHz base station, com'è? Cioè sembra un baracchino per la 27, invece era su 900 MHz, però è spettacolare quello, guarda, doppio ventaglio, potenza segnale, 40 canali, capito? Vabbè, in Inghilterra l'hanno avuta, da noi no, quella banda lì, va bene, pazienza. Ma infatti, come vedi loro non usano l'FM, io c'ho tutti i vintage senza FM, capito? Con tanti canali, perché l'Airbox c'ha 160 canali, però non c'ha l'FM, c'ha le bande laterali. L'Inuit 23 canali, solo M, il DAC che c'ha quasi 400 canali, c'ha la M e le bande laterali, non c'ha l'FM. Anche l'altro base che ho è la stessa cosa. Vabbè, già ce l'abbiamo qua l'FM negli altri radio, dai. Dai raga, vi saluto che mi ha chiamato già mia moglie. Ciao, un abbraccio e ci sentiamo domani se coincide. Ciao ciao. Ciao Claudio, dai, buona serata, buon tutto. Alle prossime. Antonio, idem con patate, dai. È che tu entri un po' tardi e a quest'ora ce ne andiamo tutti. Io a mangiare o alla TV, mi altro. Poi di notte non riesco a trattenermi dopo una certa ora, una volta lo facevo, ma anche da poco, quando c'era il Covid alla fine entravamo anche di notte perché eravamo costretti, cioè dove vuoi riuscire, non potevi uscire, e quindi dai, Anto dai, avanti per i saluti, ci sentiamo. Ciao Marco, ciao Claudio, ce la risentiamo alle prossime, ciao.